blog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Resta alta la tensione tra i due governi, tensione che sul territorio già da tempo si è trasformata in atti di violenza e vandalismo. Ultimo episodio in ordine di tempo, la devastazione, la seconda nel giro di poche settimane, del cimitero italiano a Tripoli. Immagini che dimostrano, fa sapere l'associazione degli impatriati della Libia che ha denunciato l'accaduto, non solo il livello di inciviltà raggiunto, ma anche la pericolosità della situazione. Situazione molto tesa anche a Tripoli, dove per l'ennesima volta è stato profanato il cimitero cattolico italiano, un gesto condannato dalla Farnesina come vile e barbaro, tanto più grave perché perpetrato proprio nei giorni della commemorazione dei defunti. La notizia della profanazione è un approccio singolare, ma visto che è una ricorrenza sentita soprattutto nelle generazioni più avanzate, anche se comunque da ieri nell'uscita di Roma dalla strada che va verso il cimitero, prima porta c'è una fila, c'è un tappo di macchine, quindi ancora il giorno dei defunti ha un senso profondo, un senso di ricollegarsi con la memoria, chi pensa che questo per lui abbia un valore, con le persone care trapassate, o anche per una grande maniera per elaborare il fatto che prima o poi le persone che conosciamo, può accadere, e gioco forza se sono più anziani di noi, che ci lasciano. Questa mattina la notizia, tra le tante che riguardano il rapporto Italia-Libia, è appunto quella di cui parleremo fra un istante, della profanazione del cimitero degli italiani rimpatriati dalla Libia. Lo ha denunciato la responsabile proprio dell'Associazione Italiani Rimpatriati. Un cimitero che conteneva le salme di 8.000 italiani è stato vandalizzato. Non mi fermo tanto all'episodio in sé, ma per riflettere sul fatto se ancora qualcuno reputa un gesto forte, epico, profanare i morti del nemico o della persona con cui si sente in forte dissenso, evidentemente il valore della salma del trapassato ancora sussiste, permane, una società che sembra aver dimenticato quello che è il limite ineffabile e indicibile tra vita e morte. Di questo parliamo tra un istante. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Questo alle mie spalle è il cimitero italiano di Tripoli. Qui dentro riposano i resti di 8.000 italiani. Ma questo cimitero è stato teatro nei giorni scorsi di episodi controversi. Per i guardiani del cimitero, il responsabile delle distruzioni era solo un invasato, un appassionato di magia nera. Ha aperto una cassetta di ossa, ha preso un teschio, l'ha baciato, diceva strane cose. Di questi ragazzi ha fatto gridato forte, Allahu Akbar! Come ha detto Allahu Akbar, Dio grande. Ma ora, dopo tutte queste profanazioni, la grande paura di Bruno Dalmasso è che il suo lavoro vada perduto. Piuttosto che queste ossa vengano di nuovo buttate all'aria, tutte quante, profanate le tombe, profanate tutte, meglio che portino via questo cimitero. È un grande... Questa era un'intervista del 2014, però l'episodio si è ripetuto. L'episodio a cui partiamo, lo spunto che prendiamo, la profanazione dei morti, è un gesto che è sempre stato messo in atto quando qualcuno voleva dare un segnale forte di opposizione o di vilipendio rispetto a un'idea o rispetto a quello che rappresenta un morto. Ma ogni tanto capita di leggere nei giornali profanato un cimitero, disegnate svastiche sul cimitero ebraico. È il tipico gesto di teppismo che però affonda le radici in qualcosa che sfugge profondamente sicuramente anche alle persone che lo compiono. Ma partiamo dall'episodio di cronaca. Giovanna Ortu, presidente dell'Associazione Italiana Rimpatriati dalla Libia, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori, che sono tanti, tra cui normalmente ci sono anch'io. Questo ci fa piacere. Allora, lei ha dato questa notizia, mandando le immagini alle agenzie di stampa, del nuovo scempio al cimitero degli italiani in Libia. Ci fa un po' la storia e il precedente e ci spiega esattamente cosa è accaduto, almeno da quello che risulta a lei. È un progetto che mi è stato a cuore da tantissimi anni. Il cimitero italiano di Tripoli risale agli anni 20 e naturalmente è sempre stato un luogo molto custodito e molto visitato anche. Quando noi siamo andati via nel 70, le ricordo che abbiamo perso veramente tutto in spregio a un trattato internazionale che ci proteggeva e che l'Italia non ha inteso far rispettare per evidenti ragioni economiche, certo. Per cui noi abbiamo perso tutto e siamo stati cacciati. Allora, quelli che hanno... Però avete lasciato lì i vostri morti, quelli sono rimasti. Alcuni hanno affidato ad alcuni amici, addirittura libici, il compito di mandare poi in Italia le spoglie dei propri cari. Per esempio io, mio papà, l'ho portato tramite un amico polacco, l'ho portato in Italia, ma altri, non so, la mia cugina è ancora lì, eccetera. Da qui è iniziato un degrado dovuto al fatto che appunto si apriva la tomba e si portava via la salma, e quindi negli anni in cui poi sono fioriti i rapporti italo-libici, ma si sa, diciamo, nonostante ci fosse un interscambio economico così florido, nessuno si è dato pena di custodire questo cimitero, nemmeno di tagliare le erbe, eccetera. Per cui, però questo, mi scusi, è abbastanza comprensibile. Una volta allontanati i parenti, come accade quando va uno anche al cimitero di qualsiasi città, le tombe abbandonate sono quelle che non hanno più nessuno che le va. No, su questo sono perfettamente d'accordo con lei, ed è questa la ragione per la quale noi abbiamo dato in carica una persona alla nostra piccola tomba attualmente nel cimitero di Pomezia, di custodirla anche quando noi non possiamo andare. No, ma il problema è che da un punto di vista generale, non so, c'erano delle bellissime dei bellissimi leoni, li hanno tolti, cioè un valore architettonico come molti cimiteri. Una devastazione proprio data dalla mancanza del custode, non dal fatto che non ci fossero i fiori, per cui per esempio le erbacce avevano invaso tutto, i cani cercavano di ruscolare tra le tombe. Ma chi apparteneva a questo, diciamo, il terreno? Il cimitero era stato dato al governo italiano, alla municipalità di Tripoli, ma in gestione al governo italiano, cioè praticamente, non dico tanto l'ambasciata, ma anche a livello di Ministero degli Esteri, nonostante i nostri accorati e ripetuti interventi, nessuno se n'è mai occupato, ma questo ormai fa parte del passato. Io glielo dico solo storicamente, ringrazio Dio di essere cattolica, perché per noi il culto e la memoria non dipendono dalla conservazione fisica del luogo, e questo è quello che mi consola oggi nel giorno dei morti. Però cosa è accaduto? Quindi, l'ultima... Ecco, nel 2000 noi l'avevamo fatto restaurare in un modo bellissimo ed era stato anche un grande segnale di fraternità con il popolo libico, con il quale noi siamo sempre vissuti in armonia, perché avevamo ottenuto con fondi della Farnesina, faticosamente reperiti, però devo dire la verità, anche generosamente, per un bel progetto con il quale abbiamo, come diceva Bruno Dalmasso, ricomposto tutto. Noi abbiamo dato incarico a Bruno Dalmasso, che era lì da tanti anni e che... Prendiamo il punto, mi scusi, non posso parlare tutta la vita storia del cimitero. Cimitero era stato rimesso a posto, era un posto che poteva essere posto, cos'era, un posto che aveva un valore architettonico, storico? Anche un valore architettonico, perché era stato un grande progetto. Noi avevamo ricomposto le ossa nell'ossario nell'ex ossario dove riposavano i militari italiani che Gheddafi aveva fatto cacciare e che il governo italiano era riuscito a portare comunque via. Manteneva un aspetto simbolico, era, diciamo, la presenza degli italiani in Libia, questo certo, sì. Certo. Fino al 2014 era stato tranquillo. Diciamo che sì, aveva avuto qualche piccolo danno nel 2011 durante la guerra di liberazione, durante la ribellione a Gheddafi, però noi eravamo riusciti a metterlo a posto con i soldi di una grande banca italiana. Va bene, comunque c'era attenzione a questo. Sì. L'episodio che lei invece ha segnato in questi giorni è un episodio di chiara ostilità, palese, percepibile, oggettivo, Probabilmente, guardi, cos'è accaduto? Probabilmente io non lo so, perché ho ricevuto solo quelle immagini, tra l'altro da fonte sconosciuta, vengono da una copisteria, quindi non c'è un autore materiale delle immagini. Quindi non c'è nemmeno una datazione, può essere diciamo delle strutture. No, perché una settimana fa non era così, no? È certo che questa è una cosa recente, ma fa parte di questa pesante schermaglia. Lei pensi che ci sono quattro ostaggi vivi nelle mani ancora dei libici in questo momento, quattro operai dell'ENI, e quindi è questo il mio sentimento anche nei giorni, va più ai vivi che ai morti. Purtroppo credo che per questa magnifica opera, che significava anche un fatto di fratellanza, ci sia poco da fare, ma io vorrei che almeno questo servisse di sprone per trovare qualcosa, un accordo definitivo, perché non posso credere che un popolo che io conosco, così poco guerrafondaio, che ha avuto la fortuna di essere ricco, non trovi la pacificazione, perché la mancanza di pacificazione, a mio avviso, lascia introdurre delle realtà. Comunque questo per lei allora è un atto palese, che qualcuno si è ricordato che il 2 novembre è la giornata che in Italia è molto sentito il culto ai morti, e dà un segnale, dice: io ti faccio dei danni al cimitero dei tuoi morti per farti ricordare che io ci sono. Non so se la mia interpretazione esatta, però se fosse un atto voluto e mirato è questo: ricordiamo agli italiani che non ci sta bene che stiano qui. Perché altrimenti io devo dire la verità, noi avremmo pianto in solitudine, ma pensando che ieri era il 1 novembre, che abbiamo ricevuto le immagini ieri, abbiamo ritenuto che fosse giusto, anche perché chi le ha mandate non è l'autore dello sfregio, è qualcuno che soffre per... C'è un vostro amico che la mandate, sennò... Certo. Mi spiega, io ho visto soltanto un'immagine con delle finestre distrutte, cos'altro si vede? No, perché in realtà c'è stato un errore, perché non sono riuscita a mandarle tutte in tempo all'ANSA, c'è proprio tutta, anche la cappella che faceva parte insomma delle ali del cimitero, la cappella completamente con il Cristo sfregiato, l'altare divelto, eccetera. Quello che questa volta francamente non ho visto e non figura in queste immagini è proprio la profanazione delle tombe, che in passato c'era stata, ma per dei riti magici. Sì, hanno solo mandato il servizio. Un anno fa qualcuno faceva le messe, il voodoo. Sì, ma questi 8.000 morti quindi sono ancora lì in parte? Purtroppo sì, noi avevamo tentato, devo dire che l'ambasciatore Buccino, che ha difeso fino all'ultimo, l'ultimo ambasciatore in Libia, gli italiani vivi e morti, si è dato molto da fare, perché io gli avevo detto: cerchiamo di togliere questo simbolo, cerchiamo di portarli via, infatti avevo già preso contatto. Beh, oddio, un esodo di 8.000 salme, non è proprio un gioco. Perché non era facile, ma i container avevo già trovato, però non c'è stato il tempo, perché la situazione politicamente era talmente deteriorata. Ma secondo lei ci sono persone che ancora investono emotivamente, anche concretamente, nel riportare con un container i morti di quanti anni fa? No, l'avrei fatto, l'avrebbe fatto lei. L'associazione, raccogliendo i soldi fra i propri aderenti. Ma poi dove li mettevate? 8.000 salme non sono proprio. No, allora io avevo già parlato con delle persone, con delle ditte che hanno dei cimiteri fra Roma e Latina. No, perché qua mi sembra che ci sia l'overbooking nei cimiteri, cioè sono le salme che aspettano mesi, settimane. No, lei ha ragione, però io diciamo avevo preso dei contatti preliminari per trovare una zona, insomma, in un angolo di un cimitero. 8.000 salme non è proprio un angolino. Però guardi che fuori adesso, non so, non posso fare questo conto, ma tra Roma e Latina ci sono dei cimiteri dove se lei interra le cassette non occupavano. Si però avrebbe distribuiti a questo punto, c'era una sorta, non erano tutti assieme. Difficile, ma non impossibile. Quello è che bisognerebbe, ormai non si può più, però io, c'è stata un'interrogazione la scorsa settimana, infatti io applaudo alla risposta realistica e negativa del nostro sottosegretario agli esteri, perché non è una cosa che, come vaneggiava anche l'anno scorso il buon Dalmasso, si può fare ormai. Sì, poi è impossibile, onestamente, con tutto il sacro rispetto, hanno anche altre priorità in questo momento. Ma io sono perfettamente d'accordo con lei, noi offriamo i nostri morti per la salvezza dei vivi, questo è il mio messaggio, a loro una prece, e cerchiamo invece di dare stabilità al popolo libico e di non vedere più quell'altro cimitero ben più triste che è nel Mediterraneo. Fermiamoci un attimo, sentiamo Massimo. Massimo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Senta, volevo dire il mio punto di vista, è che se uno è credente, e va questo, il mio discorso va al di là di quanto purtroppo è accaduto in Libia, se uno è credente crede che il corpo sia il tempio dell'anima, per cui per tutta la sua vita terrena, il corpo, per cui appunto al momento della morte, per cui i resti siano stati il tempio di quell'anima, per cui vadano rispettati. Però volevo menzionare un altro fatto, che non è soltanto, non mi riferisco alla Libia e me ne dispiaccio, però ci sono altri casi dove ci sono svariatissimi comunicati stampa che vengono assolutamente sempre da decenni ignorati dalla stampa, dalla radio, da tutti. Riempiamo questa lacuna, se la informo. Sì, in Iran tutte le minoranze religiose sono perseguitate, dai cristiani ai Baha'i, dei quali non si parla. Ma oggi parliamo mai dei morti, però no, dei vivi, almeno oggi. Sì, in generale sì. Parliamo dei morti, però vengono profanati regolarmente i cimiteri Baha'i, specialmente Baha'i, della fede Baha'i. Lei Baha'i? Io sono Baha'i. Ah, cioè, giustamente. Credo. Allora, fermi un attimo, Massimo, siccome non la voglio di interrompere, mandiamo un attimo un'interruzione, poi mi riprende questo punto, visto che oggi parliamo proprio dei morti profanati. Se ci sono degli episodi che non sono proprio all'onore delle cronache, oggi li integriamo. Ci parla l'ascoltatore Baha'i, che è appunto una fede rispettabilissima, dice: i nostri cimiteri sono profanati. Lei ci dirà come, ma tra qualche istante. Melog. Cronache meridiane. I due volti della Spagna. Profanazione dei sentimenti più sacri a Huesca, dove i rossi prima di fuggire hanno devastato il cimitero, scoprendo le tombe nella turpe speranza di trovarvi gioielli sepolti. Naturalmente dal tono è un cinegiornale del ventennio, parla delle infami gesta al tempo della guerra civile in Spagna dei rossi, però è testimoniato da foto molto anche facilmente rintracciabili anche in rete, se volete, di questa sorta di disfacimento e creazione di una sorta di teatro dell'orrore, in cui appunto venivano aperte le bare di suore, di religiosi riesposti con i paramenti, a volte rifucilati, a volte rimessi in atteggiamenti ignominiosi. Insomma, c'era, e con vicino appunto i miliziani si facevano fotografare accanto alle suore tirate fuori dalle bare, i vescovi, via dicendo, con la chiara e tutto. Sono immagini impressionanti, ma quando i vivi si accaniscono contro i morti, evidentemente c'è qualcosa di molto profondo, c'è qualcosa che va oltre ogni percezione immediata di compiere il gesto, andare a sputare su una tomba, andare a lordare una tomba, a fare un simbolo su una tomba. È qualcosa che probabilmente ne ricordiamo appena, forse non ricordiamo affatto la radice, ma è qualcosa che sappiamo compiere un gesto che va oltre quelle che sono le capacità umane di percepire i limiti di un proprio gesto. Mi stanno scrivendo ascoltatori: Nicoletti, sei pazzo, con tutti i migranti clandestini che arrivano ti preoccupi per la cifra di 8.000 salme. Ma io non mi preoccupo affatto, non sono per nulla preoccupato, sto osservando un fatto di cronaca e trovo che oggi il giorno in cui una gran parte di persone elaborano il loro dolore per le persone morte, quindi andando al cimitero, parliamo della profanazione dei morti. Vi è mai capitato, ma avete mai avuto il desiderio o l'istinto di andare sulla tomba di qualcuno che ha fatto molto male, compiere qualche atto che vada oltre la vita di quella persona, dire: sei morto, io vengo a profanare la tua tomba, vengo a sputare sulla tua tomba, qualcosa del genere. Sono gesti che accadono nelle realtà anche piccole, è facile vedere persone che vanno al cimitero per inveire contro il morto, qualcuno ti ha fatto molto male. Ridicolo, abbiamo i pensionati che muoiono di fame e pensiamo ai morti sotterrati in Libia. Pensiamo a tutto, il cervello è grande, è un contenitore immenso, può contenere l'incommensurabile, quindi ai pensionati che stanno male penso anche in questo momento, mi viene di riflettere sul fatto che c'è una signora che sta organizzando i container, un gesto sembra folle, per riportare a casa 8.000 salme di morti, è qualcosa che è legato alla giornata. Ma io volevo, prima di risentire l'ascoltatore Massimo che ci integrerà le lacune della storia sui morti profanati, volevo sentire Marco Pizzo, che è un amico che sentiamo spesso Pizzo, che è il direttore del Museo Centrale del Risorgimento a Roma. Marco Pizzo, vediamo se riesci a farci un excursus di quella che era l'attitudine dei vincitori, ma anche dei vinti, o comunque di chiunque voglia compiere un gesto di profanazione nei confronti di un nemico, di andare a toccare i propri morti, i morti del nemico, cioè oltraggiare i morti del nemico in guerra, in rivoluzioni, in guerra civile. È accaduta questa cosa? Beh, diciamo che è un atto che comunque sta nella storia dell'uomo fin dall'antichità. Sono famosi gli esempi del Rinascimento e del Medioevo, proprio perché la sepoltura rappresentava in qualche maniera la testimonianza di appartenenza o nazionale o civile. Io, che comunque sono Museo del Risorgimento, ricordo che ci sono esempi anche celebri nella nostra storia. I corpi dei fratelli Bandiera o quelli di Carlo Pisagane hanno stentato a trovare una sepoltura, proprio perché il sepolcro rappresentava il luogo in cui continuava a esserci quell'idea. Quindi la profanazione del sepolcro significa ribadire una sorta di ostilità rispetto a ciò che rappresentava il morto per altre persone. Certo, tant'è che una delle pene più gravi che venivano comminate nel Rinascimento era la bandita, cioè uno veniva cacciato dalla città e quindi diventava tra virgolette un bandito, e questa cacciata dalla città comportava il fatto che una volta da morto le sue spoglie dovevano giacere in terra insepolta, e quindi il sepolcro era proprio far parte di una comunità, e quindi la profanazione del sepolcro è proprio un atto ostile, bellico e altamente simbolico. In tempi delle guerre recenti, fino diciamo alla prima guerra mondiale, che è l'ambito di cui si occupa il Museo del Risorgimento, ci sono episodi di violazione di questo principio, diciamo, morale, etico, del rispetto per la salma? Diciamo che durante la prima guerra mondiale viene formalizzato questo rispetto della salma, tant'è che anche in campo italiano o austro-ungarico, il cimitero di guerra godeva di una sorta di rispetto extraterritoriale. Le cose cambiano completamente durante la Seconda Guerra Mondiale, dove invece il luogo di sepoltura inizia a essere luogo di damnatio memoria e quindi di rivalsa, di saccheggio, di non rispetto. E questo è proprio un sintomo di come proprio con il XX secolo cambia l'identità nazionale e personale. Ma mi vengono in mente episodi come, non so, la guerra in Spagna, in cui venivano dai rivoluzionari aperti i sepolcri di monache, di preti, esposti e sbeffeggiati cadaveri. C'è proprio questa del vilipendio verso il morto come un atto ostile per le persone ancora vive. Certo, tant'è che la guerra civile spagnola fu l'esaltazione di questo, tant'è che i religiosi, per esempio, nel momento in cui venivano uccisi, venivano spogliati dagli abiti ecclesiastici. Poi l'esempio più clamoroso in Italia... Per impedire poi, diciamo, la profanazione, per questo? Sì, per impedire la profanazione, per considerarli in qualche maniera, farli rispettare come civili. Tant'è che molti ordini religiosi hanno le foto dei sacerdoti vestiti civilmente e solo dietro c'è scritto che quel morto è un religioso, perché era l'unica testimonianza possibile, come tantissimi religiosi, per esempio nella Cina degli anni 40-50. In cui era fatta proprio un motivo di copertura che la loro morte, se no, veniva dava il via alla profanazione della loro tomba. Certo che sopravviva, questo è un tuo giudizio, in epoca moderna, che in fondo il pensiero laico sembra avere una sua prevalenza, il fatto che ancora, mi riferisco al fatto dei morti italiani in Libia, qualcuno pensa andare a profanare le tombe di persone che ormai sono un capitolo passato anche della storia della Libia, su questo è un tuo commento? Sì, il mio commento è che in qualche maniera si fanno questi atti simbolici, che comunque continuano ad avere un riverbero nell'opinione pubblica, proprio come atto ultimo di volontà di sacrilegio della memoria, cioè una volontà di testimoniare questo usando una tradizione antica ma che ancora ha forti radicamenti culturali, cioè per noi ancora in una società laica del XXI secolo eccetera, esiste il culto dei morti, esiste, rimane e permane, e far leva su questo significa recuperare una radice profonda della nostra cultura. Grazie Marco Pizzo, alla prossima. Grazie a voi. Ecco, con Marco Pizzo abbiamo fatto il punto su quello che è l'escurso storico dei morti profanati e violati. Con l'ascoltatore Massimo, come avevo promesso prima, vediamo di integrare delle profanazioni di cui si parla poco. Diceva Massimo, lei ha possibilità di raccontarci qualcosa che accade in... Pronto? Sì, ci sono. Rispetto, diciamo, i morti bai che vengono profanati, come... Sì, adesso le ho girato su Melog una mail vecchia del 2014, specialmente alla città di Shiraz, che è la città dove è nata questa fede all'interno dell'Iran, che è sparsa in tutto il mondo, il cui centro mondiale è ad Haifa, in Israele. Mentre all'estero, specialmente nei paesi tipo Canada, anglosassoni, i comunicati stampa delle comunità Bahai o del centro mondiale Bahai vengono diffusi, in Italia non è mai successo nulla. Però comunque, ritornando all'argomento, è pronto? No, io mi ricordo che negli anni '80 feci una trasmissione su Bahai in Italia, me ne occupai. Io negli anni '80 ero in Africa, in Zambia. Ecco, esattamente qual è il punto del problema? Allora, ci racconti, il problema riguardo l'argomento che lei ha impostato è che la fede Baha'i riconosce un'altra importanza ai resti umani delle salme. È l'unico caso in forse in cui c'è una cerimonia particolare, è una fede senza cerimonie, ma l'unica cerimonia che c'è, che è scritta nei libri e va seguita, è proprio riferita al funerale, alla conservazione e al rispetto del luogo. È proprio in ragione di questo, quindi nei posti dove diciamo è osteggiata questa fede... Sì, è altamente simbolico, cioè effettivamente, a parte, adesso non voglio divagare né voler apparire come così parlare della fede Bahai, non è tanto... No, voglio parlare dell'aspetto, in che luogo del mondo profanano i vostri morti, ecco. Sì, lì è simbolico, profanano, hanno distrutto tutti i luoghi dove è nato il Baba, cioè il fondatore della fede Bahai, e hanno distrutto specialmente il cimitero di Shiraz e altri ancora che adesso non ricordo perché nel tempo arrivano comunicati, non dico tutti i giorni, ma un paio di volte al mese ci sono i casi, perché vengono perseguitati i cristiani come i Bahai, ce ne sono diverse centinaia in prigione solo per la loro credenza. Però questo esula dall'argomento specifico che lui tratta, però sempre un dato su cui bisogna riflettere. Ci fermiamo un attimo perché devo dare l'interruzione e poi riprendiamo l'argomento, visto ci sono anche altre telefonate. Ripeto, l'argomento è la profanazione del morto, quanto senso abbia ancora a profanare il morto per attaccare il vivo? Probabilmente molto, al di là di tutte le letture superficiali sulla secolarizzazione dell'umanità, se ancora si fa un oltraggio al morto per far soffrire il vivo, si vede che è ancora percepito il legame sottile fra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta... Melog, cronache meridiane. Disgusto e costernazione a Sar Union, nel Basso Reno, dopo la profanazione di diverse centinaia di tombe in un cimitero ebraico. Le lastre di marmo sono rotte, la terra è sparpagliata e alcune sono rotolate giù. Ciò è stato fatto con metodo, cioè non c'è una pietra qui e una pietra là, è veramente una fila dietro l'altra, come se si fosse voluto decimare il cimitero di Sar Union, farne terra di nessuno. Si tratta della più grave profanazione di un cimitero ebraico in Francia negli ultimi 25 anni. 800-24-0024, stiamo parlando, diciamo, dell'aspetto speculare antitetico al culto dei morti, la profanazione dei morti, o il terrore che un culto di certi morti, che la storia ormai ha condannato, possa crearsi attorno alla sepoltura, e quindi i personaggi scomodi o condannati in maniera unanime dalla storia non hanno più tomba. Mi ricordava Buttafuoco, che è silenzioso ma è qui in questa stanza a lavorare. Bin Laden è scomparso, non esiste il corpo di Bin Laden, è stato buttato in mare, ma per la stessa ragione abbiamo parlato qualche tempo fa del mausoleo che si vuole creare sulla storia del Novecento, però guarda caso a Predappio, dove c'è il luogo di culto del, dove sta la salma di Benito Mussolini, ma per tutti i criminali nazisti non c'è cimitero, non c'è luogo di ricordo. Perché? Perché naturalmente poi la storia, quando condanna delle persone, non vuole nemmeno che si crei attorno alla loro salma un nuovo consenso o una nuova maniera di ricordarne la memoria. Quindi la damnatio memoriae, cioè il fatto che di una persona non debba restare memoria, inizia proprio con la scomparsa della sua tomba. Pensavamo prima sempre con buttafuoco, noi ogni volta che entriamo in una chiesa in realtà calpestiamo tonnellate di ossa di morti. Guardate le belle chiese di Roma, le chiese storiche, se guardate dove mettete i piedi, vedete un bassorilievo ormai consunto, rovinato dai passaggi infiniti, ma c'è un bel vescovo con tutti i paramenti del suo status, steso lì con le sue belle babbucce, con il suo bel bastone pastorale, con la sua mitra in testa, e poi ci passano tutti sopra e non si rendono conto che sotto quel bassorilievo in realtà ci sono delle ossa. Quello non è un morto profanato, un morto dimenticato, perché sta nella storia a un certo punto. Comunque, proprio se siamo polvere, polvere dobbiamo tornare, alla fine questa polvere diventerà anche polvere dimenticata, viva Dio. Renato, buongiorno. Buongiorno a lei, signor Nicoletti. Racconti la sua storia. Volentieri. La storia risale un po' a due famiglie che vivevano assieme. C'è stato il fratello di mio papà, perché mi rifiuto di chiamarlo zio, il quale con una serie di artifici è riuscito a prendersi praticamente tutto il frutto del lavoro di mio papà. Vabbè, una faida familiare succede, non voglio in questo sminuire la gravità del suo dolore, ma in tante famiglie a un certo punto si devono spartire soldi, le famiglie fanno coltelli e succede questo. Sì, però il problema è che mio papà si ritrovò a 40 anni senza soldi, con debiti, e praticamente le azioni di mio zio si sono riverberate anche sulla vita mia e di mio fratello. Ecco, questo è una storia, ma riguardo all'aspetto che tocchiamo oggi, al post mortem. Anche ieri, quando sono andato in cimitero per la commemorazione dei defunti, trovare mio fratello e mio papà, vedere accanto la tomba di mio zio, a me vengono i capelli dritti. Perché li hanno seppelliti vicini, nonostante si fossero fatti la guerra. Purtroppo sì. Questo è fatale, si sono massacrati da vivi e da morti, stanno uno accanto all'altro. Sì, però le dico, io ogni volta che vado in cimitero, se potessi sfonderei tranquillamente, tirerei fuori la bara e la incendierei. Quindi viene questo istinto di accanirsi sulla salma del morto. Sì, molto forte anche, in modo direi quasi prepotente. Ci fu un famoso papa che dopo morto lo ritirarono fuori, era putrefatto, lo rimisero sul soglio per poi doverlo, mi sembra Papa Formoso, cito a memoria. Quindi esiste anche nelle ritualità, nelle liturgie, il fatto che se vuoi denigrare la memoria di una persona, lo devi ritirare fuori, metterlo sulla sua sedia papale e processarlo. È stato processato cadavere, mi sembra un papa, cito a braccio, ci può essere un'esattezza, però c'è nella storia della Chiesa questo fatto. Ugo, buongiorno. Sì, buongiorno a Nicoletti, buongiorno a tutti. Io invece volevo spostare l'argomento sempre riguardo alla profanazione sull'aspetto economico, cioè coloro che profanano le tombe per rubare degli oggetti e poi andare a rivenderli, e anche questo secondo me è una profanazione. Ma questo è lo sciacallaggio. Vabbè, insomma, però arrivo al dunque. L'esempio mio pratico è che la mia famiglia ha una cappella adiacente ad altre. Il tetto di questa cappella era un tetto in rame. Ha praticamente rubato tutto il rame proprio durante la stagione delle piogge. Quando è accaduto questo? L'anno scorso novembre. Ha continuato a piovere, di conseguenza l'acqua è penetrata in tutti i loculi e abbiamo dovuto mettere mano dopo circa un anno, e siamo arrivati appena in tempo a mettere a posto prima del giorno dei morti, perché l'acqua era entrata dappertutto, ma dava andare là e vedere queste cose dava un'impressione che c'è di mancanza totale di rispetto di coloro che erano sepolti. Cioè uno arriva lì, ruba il rame e non gliene frega niente di quello che c'è sotto. Secondo me, ma anche il vasettino stesso che c'è davanti alla lapide di marmo di un loculo, e te lo vedi rubare, cioè, non sarà una profanazione vera e propria, nel senso che magari il morto è dentro ancora nella tomba, ma quello che rimane all'esterno è stato comunque profanato. Comunque non ci sono fatti scrupoli portare via il tettino di rame della cappella dove c'erano i morti dentro. Assolutamente no, mancanza totale di rispetto dei morti. Oltretutto, dalle mie parti, penso anche come in altre, c'è grande rispetto ancora per i morti. Il cimitero è tenuto quasi come un giardino, difatti anche il comune stesso mette mano spesso, diciamo, a ristrutturazioni eccetera, e voglio dire che è anche piacevole, anche sereno andare a trovare i propri morti, provare una certa serenità e vedere tutti in ordine e sapere che il proprio defunto è sepolto. No, mi fa piacere, grazie della testimonianza, che ancora la mente mi ci sta. È proprio Papa Formoso, fecero un macabro sinodo del cadavere, è un papa dell'816, quindi un papa molto antico, che a un certo punto dovevano scomunicarlo, e per scomunicarlo, visto che era morto, lo ritirano fuori, rivestono il cadavere che puzzava, fu una cosa terribile, mi ricordo questo episodio, e fanno proprio un sinodo con questo papa cadavere vestito da papa per poterlo scomunicare e poi quindi condannarlo. Quindi in realtà il cadavere è ancora carico di una forza, anche dopo molto tempo che è stato abbandonato dallo spirito di chi l'ha animato. Angelo, velocemente. Sì, grazie. Niente, vi volevo semplicemente ricollegare a quelle che diceva il radioascoltatore di prima riguardo alla profanazione delle tombe in Iran ad opera del regime iraniano. Non riguarda soltanto le minoranze etniche e religiose, il regime iraniano sistematicamente profana le tombe di tutti i dissidenti politici, intellettuali, poeti e musicisti soprattutto, che in qualche modo hanno espresso il loro dissenso nei confronti. Ne prendo atto, non ho in questo momento assolutamente fonti per poterla confermare questa cosa, ma può essere benissimo, tutti l'hanno fatto, tutti lo faranno, continueranno a farlo gli uomini finché ancora avrà un senso attribuire qualcosa di oltre la sua materia fisica al cadavere di una persona umana. Alla prossima!